Signore e signori, benvenuti al nostro appuntamento di Radio Polonia. Iniziamo il nostro programma dandovi lettura della cronaca della settimana in Polonia, augurandovi buon ascolto. Secondo uno dei quotidiani varsaviesi, in alcune librerie di Wrocław sarebbe apparsa la traduzione in lingua polacca di Mein Kampf di Adolf Hitler. Il libro gode di grande interesse. Soltanto in una delle librerie ne sono stati venduti 10 esemplari nel corso di un'ora. La gerente della libreria ha detto al giornalista del quotidiano in parola che per ora aveva ordinato 40 esemplari e tutti sono stati venduti nel corso di 2 giorni.